Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e bentornati ai figli di Enea su Radio 24. Anche questa settimana un importante ospite. Io sono in collegamento con Karim Metref. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Karim Metref è un torinese proveniente dall'Algeria che è arrivato in Italia come insegnante, ha scritto molti libri in Italia. Il suo ultimo libro, Algeria tra autunni e primavera, capire quello che succede oggi con le storie di 10 eventi e 10 personaggi. Questo è un libro dell'anno scorso, mentre Tagliato per l'esilio è del 2008. Adesso ha partecipato a questa importante manifestazione, Nuove pagine di confronti della società Dante Alighieri, sulla lingua italiana. E lei tra l'altro parla tre lingue, no Metref? Anche di più. Com'è questo rapporto con la lingua italiana? Come nasce innanzitutto? Perché lei, dicevamo, viene dall'Algeria e poi a un certo punto della sua vita è venuto in Italia. Come mai? Sono venuto a un certo momento della vita in Italia, era un po' un caso, un po' per sviluppare una, diciamo così, ho voluto fare un'esperienza qua in Italia e poi sono rimasto. Non ho mai fatto un chiaro progetto di migrazione, ma non mi sono mai messo, diciamo così, un divieto di andare a vedere cosa succede altrove. E essendo all'epoca, ma tuttora, essere un cittadino di un paese come l'Algeria e di quasi la totalità dei paesi africani vuol dire vivere in un grande carcere, perché non si può uscire facilmente. La questione dei visti per i paesi poveri rimane una specie di apartheid nel mondo, dove certi cittadini di certi paesi hanno diritto di andare ovunque, altri non possono andare da nessuna parte. E questo, devo dire che questo ha giocato molto nella scelta di rimanere in Italia, perché rimanendo in Italia avevo il mondo aperto di fronte a me, mentre stando in Algeria ogni uscita era un vero problema, un vero rebus da risolvere. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio. Perché Torino? Perché la scelta di Torino? Allora, devo dire che Torino è stata lei a scegliermi, non io a scegliere Torino. Io sono arrivato all'inizio, sono arrivato in Liguria, nella deliziosa, ma d'inverno abbastanza triste località di Rapallo. Ci ho vissuto circa 3 anni, poi mi sono spostato un po' di qua di là, poi degli amici che lavoravano in un progetto comunale all'epoca della città di Torino, che si occupava di giovani e di intercultura, mi hanno chiamato per lavorare in quel progetto lì e da lì mi sono innamorato della città e sono rimasto. Parliamo di questa iniziativa, la Dante Alighieri, pagine di confronti della Dante, è stata proprio aperta da lei. Innanzitutto, che tipo di iniziativa è e quanto è importante riflettere intorno alla lingua e al confine, alla frontiera fra lingue e culture diverse? È importante soprattutto in questo momento, diciamo così, della storia dell'umanità, in cui se le frontiere da un punto di vista amministrativo si sono chiuse, sono diventati dei muri, a volte anche fisicamente dei muri, dal punto di vista culturale si sono completamente insomma, sono scomparsi i confini tra le lingue, tra le culture, tra le pratiche culturali, una tendenza che nasce oggi in un paese, io penso a qualsiasi, a volte principalmente dai paesi più ricchi vengono le tendenze, ma qualche volta succede anche da un paese un po' più modesto, si propaga certe volte grazie ai mezzi di informazione, grazie ai mezzi di comunicazione, con la velocità della luce, e questo fa sì che tutto si sta confrontando, tutto si sta incontrando in modo più veloce, in modo più deciso e a volte anche un po' violento, perché diciamo che questa apertura forte è anche un pericolo per le lingue minoritarie, quelle parlate da poche persone, quelle che non hanno la forza di uno Stato che le protegge, eccetera. E quindi credo sia importante confrontarsi sulla bellezza delle lingue, tutte le lingue, sul fatto che noi esseri umani possiamo essere vivere insieme con varie lingue. I bambini imparano fino a 5 lingue senza nessun problema, non c'è, sono solo come dire, gli adulti e i nazionalismi che mettono delle priorità, che mettono così delle precedenze tra una lingua e l'altra. Gli esseri umani in realtà sono in grado di vivere, di convivere, di interagire in varie lingue senza nessun problema. L'italiano è una lingua che si è andata a sommare in lei ad altre lingue che ha frequentato, che utilizzava in Algeria, perché oltre all'arabo anche il berbero e il francese sono le sue lingue madre, no? La mia vera lingua madre è il berbero, a casa mia si parla la lingua berbera, diciamo la variante della regione della Kabilia nel centro dell'Algeria, centro nord. La vera lingua madre è quella, però io molto presto ho imparato sia l'arabo che il francese perché mio padre e mio nonno erano tutte e due insegnanti di lingua francese, me l'hanno insegnato ancora prima di andare a scuola, e poi c'erano i mezzi di comunicazione all'epoca, la TV, la radio, eccetera, che molto spesso parlavano, cantavano in questa lingua, che era quella del colonialismo francese, che quindi ha marcato profondamente la cultura algerina. Poi l'arabo, prima l'arabo dialettale, quello che si parla tra le strade delle città, della città di Algeri in modo particolare, perché i miei fratelli, se io sono cresciuto in montagna, nel mio piccolo villaggio della Kabilia, i miei fratelli, loro più grandi, sono cresciuti nella città di Algeri, e quindi la loro lingua di comunicazione tra di loro era la lingua, il dialetto di Algeri, e quindi anche quello l'ho preso dai miei fratelli molto presto. Quindi a 6 anni, quando sono arrivato alla scuola elementare, già parlavo 3 lingue. Quindi una lingua madre, una lingua padre, una lingua dei fratelli. E l'italiano come si è andato sommando in questa affettività linguistica? È la lingua dell'amicizia, dell'affetto, perché comunque è la lingua con cui parlo con la mia compagna, è la lingua con cui parlo con i miei amici, è la lingua per me ormai da più di 20 anni, ormai è la lingua di tutti i giorni, quella che pratico nella vita quotidiana, e quindi è una lingua amica, ma amica intima, diciamo così. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia. La mano, chi chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta. Ci fermiamo brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo subito dopo. I figli di Enea. Questa sera siamo con Karim Metref, che ha aperto le pagine di confronti della Dante. Che notizie ha dall'Algeria, sia dal punto di vista di Covid-19, sia dal punto di vista dell'utilizzo della normativa eventualmente per reprimere il dissenso? Allora, in Algeria in realtà questa crisi del Covid, che non è molto grave come, diciamo, situazione, il numero di malati non supera i 10.000 di contagiati, diciamo, sin dall'inizio, di cui molti ormai sono guariti, però la chiusura, decisa anche abbastanza con ritardo, in realtà le popolazioni si erano messe quasi in autoquarantena prima della decisione dello Stato, perché lo Stato aveva altro da fare. La situazione è che lo Stato sta approfittando di questa chiusura, di questo lockdown, per regolare dei conti con un movimento di protesta che era in atto da più di un anno, dal 22 febbraio dell'anno scorso, che era nato il movimento che si chiama il Hirak, e che ogni venerdì e ogni martedì usciva per le strade per chiedere un cambiamento, un radicale cambiamento democratico nel paese. Con questo inizio di questa crisi del Covid, quindi l'arresto di tutte le manifestazioni, e gli animatori del Hirak avevano chiamato spontaneamente a non andare più a manifestare, perché per rispetto per le norme, insomma, di sicurezza sanitaria. Il regime sta approfittando per rafforzare la sua posizione, per arrestare le elementi pensanti del movimento, per arrestare i giornalisti, quelli che scrivono più liberamente, più in modo più critico rispetto al regime, e per cercare anche di creare divisioni e rompere, in qualche modo spaccare il movimento in modo definitivo. Se ci sia riuscito o meno lo capiremo quando si riaprirà, per vedere. Io credo che le manifestazioni che seguiranno la riapertura saranno molto più imponenti, perché molti sono molto arrabbiati per questo fatto che durante la chiusura il regime ha arrestato tantissima gente e ha pronunciato delle sentenze molto molto dure, che non avrebbe pronunciato probabilmente con la presenza di manifestanti fuori dai tribunali. Si je dois m'en aller, je le ferai pas sans toi. Ça fait tant d'années que t'attends que je te sors de là. Laisse les dents parler, l'histoire ils la connaissent pas. Je ferai toi ma reine et tu feras de moi un roi. Je vais te faire quitter le barrio, oh, partir sans dire adios. Je vais te faire quitter le barrio, oh, partir sans dire adios. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me laisse aller, amour et monte avec moi. Karim Metref, come vede dall'Italia quello che sta accadendo negli Stati Uniti, anche dal punto di vista di un italiano che ha origini nordafricane? Non è una situazione che riguarda solo l'America. Ovviamente il razzismo c'è sempre stato e ci sarà sempre, però le espressioni più violenti, più palesi di razzismo risalgono quando ci sono delle situazioni di crisi profonda, quando le società stanno male. Io credo che questo era già il caso prima di questa pandemia in corso. La crisi economica, ma anche politica, anche sociale, che stava stringendo il mondo in una morsa di disagio che stava risvegliando tutti i razzismi, tutti gli estremismi, tutti i nazionalismi attraverso il pianeta. Con questa crisi della pandemia proprio è stata una mano celeste per questi movimenti, per questi pensieri estremisti. Si sa quando l'essere umano ha paura, ha tendenza a rifugiarsi sotto l'ala di qualche leader carismatico che promette sicurezza, che promette di difendere dai nemici, eccetera. E questo credo porterà degli effetti per un po' di anni dopo questa crisi del Covid. Per chi come me vive in un paese che non è il suo di nascita, sta diventando più difficile dappertutto. Ovviamente gli Stati Uniti c'ha una questione che rimane aperta da più di tre secoli, che non è mai veramente stata risolta, che è quella della differenza tra le popolazioni, tra la maggioranza bianca e la minoranza nera, che all'origine fu portata per fare da schiavi a questa maggioranza, e quindi quel rapporto di dominazione non è mai stato in realtà risolto. Qualche passo è stato fatto ovviamente con l'abolizione della schiavitù e le lotte per i diritti civili degli anni 60-70, ma ad ogni crisi, ad ogni ritorno così di degrado della situazione sociale, politica, economica del paese, questi profondi problemi che esistono da tanto tempo risalgono in superficie. Ecco. Non si vede una leadership, non salgono delle persone alla ribalta che possono guidare questi movimenti. Come mai, secondo lei? Ma sì, questa è una costante un po' dappertutto, anche in Nord Africa. In questo momento i movimenti di protesta sono senza leader. Si può citare il movimento che ha rovesciato, o che sta ancora tentando di rovesciare, il regime dei militari in Sudan, il movimento che è in corso in Algeria, e anche in qualche modo i movimenti che in Marocco stanno cercando di accedere a più libertà e a più giustizia, non esprimono dei leader forti, dei leader dal punto di vista ideologico, nel senso che non c'è qualcuno che dà la linea da seguire. Questo è dovuto al fatto che siamo in una fase in cui le ideologie tradizionali sono in forte crisi, non sono più adeguate, precise, ben strutturate come lo erano il comunismo, il socialismo, eccetera, all'epoca insomma, nelle epoche precedenti. E quindi i movimenti che crescono, che sono dei movimenti di protesta, che sono, questo fa sì che nessuno, anche se si è dentro questi movimenti, forse ci sono dei piccoli leader di piccoli movimenti, di piccole tendenze, però nessuno di questi è riconosciuto da tutti come il leader comune, ecco. Pour toi je tue comme sicarios, après l'amour je fume un sicario, la mala suerte bye bye adios, j'ai compte en Suisse et baracario, j'aime ton côté vida loca, t'es mon caractère de losa, suis-moi le reste on ira, si je dois m'en aller, je le ferai pas sans toi, ça fait tant d'années que t'attends que je te sors de là, laisse les dons parler, l'histoire ils la connaissent pas, je ferai toi ma reine et tu feras de moi un roi, je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios, je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la c'è un dibattito in Italia sulla necessità a questo punto di pensare a un posto dove dare una degna sepoltura alle persone di religione musulmana. È risorto questo dibattito di recente a proposito delle persone che purtroppo sono scomparse per il coronavirus. Lei segue questo dibattito, crede che sia ora di pensare anche a quella fetta di italiani, non sono pochi, che hanno appunto abbracciato la fede musulmana? Io personalmente non sono religioso, non mi considero agnostico, quindi lo seguo quando è un dibattito che va a toccare i diritti delle persone. Io credo che tutte le persone hanno il diritto di essere rispettate nelle loro credenze, nelle loro pratiche, qualche che siano, e se si aprono delle vie e delle concessioni per certe minoranze, non vedo perché ad altre queste cose non possono essere concesse. La questione dei cimiteri credo sia una questione che per ora viene risolta a livello locale, da comune a comune. So che a Torino, per esempio, c'è una parte, un'ala del cimitero principale che è dedicata alla comunità musulmana, così come è stato di recente creato anche il cimitero per la comunità ortodossa romena. Però questo, conoscendo l'Italia di oggi, con i tanti sindaci, sceriffi in giro per il paese, che c'è il rischio poi di creare delle situazioni in cui alcuni usano questa questione per giocare sempre sul sentimento del creare, del speculare sul nemico, sul pericolo musulmano, eccetera. E quindi forse sarebbe bene fare un dibattito nazionale, definire, diciamo così, una regola nazionale che sarebbe valida non solo per i musulmani, ma per tutte le comunità di religioni diverse che abbiano un certo numero, diciamo una certa presenza nella società. Grazie a Karim Metref per essere stato con noi questa sera e buona serata. Buona serata. Grazie anche a tutti voi per essere stati in ascolto dei Figli di Enea. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24. Io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao!